Mi sembra il momento di dare la soluzione del nostro quiz. Tu hai avuto un'idea? No, completamente disorientato, mi sembrano possibili tutti e tre. Ecco, infatti, in realtà possibili non sono, perché due erano completamente inventate dalla fantasia della redazione, cioè sì. Non esiste un ombrello elettromagnetico che tiene lontani i fulmini e non esiste ovviamente un olio di ciliegia, ma soprattutto che si scioglie in acqua, perché sappiamo benissimo che è un grasso e quindi non può essere sciolto in acqua. Quindi la soluzione era la 2, cioè esiste una resina ecologica prodotta da una società di Lecce ed è estratta proprio dal guscio di anacardo, e di questa particolare ricerca ne parleremo approfonditamente settimana prossima.